I muri abbattuti diventano ponti, rileggendo Lord. Buonasera a tutte le radioascoltatrici del martedì femminista e lesbico autogestito. Ancora con voi ci sono io, Nancy, e con me c'è Elisa che mi supporta e dico anche sopporta al mixer. Ancora per quest'ennesimo appuntamento con la lettura di Zami, così riscrivo il mio nome, una biomitografia di Audre Lorde. Un brevissimo stacco e ricomincio la lettura. Buon ascolto. A casa mia madre diceva: ricordatevi di essere sorelle in presenza di estranei. Intendeva in presenza dei bianchi, come quella donna che aveva cercato di farmi alzare per cederle il posto sull'autobus numero 4 e che puzzava di solvente. Alla St. Catherine dicevano: siate sorelle in presenza di estranei, e loro intendevano i non cattolici. Alle superiori le ragazze dicevano: siate sorelle in presenza di estranei, e loro intendevano gli uomini. Le mie amiche dicevano: siate sorelle in presenza di estranei, e loro si riferivano ai perbenisti borghesi. Ma alle superiori le mie vere sorelle erano le estranee. I miei insegnanti erano razzisti e le mie amiche erano del colore di cui non dovevo mai fidarmi. Alle superiori le mie migliori amiche erano le marchiate, come ci definivamo a volte nel nostro gruppo di sorellanza ribelle. Non parlavamo mai di quelle differenze che ci separavano, solo di quelle che ci univano contro gli altri. Con le mie amiche parlavamo di chi studiava tedesco o francese, di chi amava la poesia o ballare il twist, di chi usciva coi ragazzi e di chi era progressista. Parlavamo anche del nostro ruolo di donne in un mondo che tutti si aspettavano fossero gli uomini a gestire. Ma non parlavamo mai di cosa volesse dire essere nera e bianca, e di come ci si sentisse a esserlo e degli effetti che questo aveva sulla nostra amicizia. Ovviamente chiunque avesse un briciolo di buonsenso condannava la discriminazione razziale, teoricamente e senza discussione. Potevamo superarla ignorandola. Ero cresciuta in un mondo talmente isolato che era difficile per me percepire la differenza se non come una minaccia, perché di solito lo era. La prima volta che vidi mia sorella Helen nuda nella vasca da bagno avevo quasi 14 anni e pensai che fosse una strega, perché i suoi seni marrone chiaro avevano dei capezzoli rosa pallido e non viola scuro come i miei. Ma a volte il pensiero che ci fosse qualcosa di segretamente sbagliato in me, qualcosa che metteva una barriera fra me e il resto delle mie amiche che erano bianche, mi faceva impazzire. Cos'era che tratteneva le persone dall'invitarmi a casa, alle feste, alla casa al mare per un fine settimana? Era perché anche le loro mamme non volevano che facessero amicizia con nessuno, come mia madre? Le loro madri le mettevano in guardia dal fidarsi degli estranei? Però si andavano a trovare l'un l'altra. C'era qualcosa che mi sfuggiva. Siccome l'unico posto in cui non potevo guardare era dietro i miei occhi, ovviamente il problema ero io. Non avevo parole per esprimere il razzismo. Sotto sotto, probabilmente, sapevo già allora ciò che so adesso, ma la mia mente di bambina non riteneva che questa fosse una cosa utile da capire, e a me serviva troppo rimanere bambina ancora un altro po'. Eravamo le marchiate, la frange estremista, fiere della nostra stravaganza e follia, dei nostri inchiostri dai colori bizzarri, le nostre penne d'oca. Sapevamo come prendere in giro i conformisti e come trasformare le nostre paranoie di gruppo in un istinto di autoconservazione che ci fermava nelle nostre bravate appena in tempo per non essere espulse. Ci dilettavamo a scrivere poesie oscure e facevamo tesoro della nostra stranezza come un tesoro di ripiego, e nel fare questo imparammo che la sofferenza e il rifiuto facevano male, ma che non erano fatali e che potevano servire a qualcosa, dato che non era possibile evitarli. Imparammo che l'assenza di sentimenti era peggio della sofferenza. In quel periodo soffrire era senza dubbio la cosa che sapevamo fare meglio. Eravamo diventate le marchiate perché avevamo imparato a farne una virtù. Che misero nutrimento ricevuto nei 4 anni passati alle superiori, eppure quanto è stato importante quel nutrimento per la mia sopravvivenza. Ricordare quel periodo è come guardare vecchie foto di me in un campo di prigionia mentre raccolgo degli avanzi ancora mangiabili da un mucchio di immondizia, sapendo che senza quell'immondizia avrei potuto morire di fame. Il razzismo schiacciante di tanti insegnanti a scuola, incluso quelli per cui mi presi le peggiori cotte di scolara. Di quanto poco contatto umano mi sono accontentata rispetto a quanto ero consapevole di volerne. È stato alle superiori che sono arrivata a capire che ero diversa dai miei compagni di scuola bianchi, ma non perché fossi nera, ma perché ero io. Per 4 anni l'istituto Hunter fu un'ancora di salvezza. Indipendentemente da come fosse in realtà, ci trovai qualcosa di cui avevo bisogno. Per la prima volta incontrai giovani donne della mia età, nere e bianche, che parlavano una lingua che potevo per lo più comprendere e che potevo utilizzare per rispondere. Incontrai ragazze con cui potevo condividere sentimenti e sogni e idee senza timore. Trovai degli adulti che tolleravano i miei sentimenti e le mie idee senza punirmi per la mia insolenza, e persino alcuni che per quelli mostravano rispetto e ammirazione. Scrivere poesie divenne un impegno costante e non più un vizio segreto e ribelle. Nemmeno quelle altre che scrivevano poesie alla Hunter mi invitavano a casa, ma mi elessero redattrice letteraria della rivista della scuola. Al secondo anno delle superiori c'era guerra aperta su ogni fronte della mia vita, tranne la scuola. I rapporti con la mia famiglia somigliavano ormai a una versione caraibica della Seconda Guerra Mondiale. Le conversazioni con i miei, soprattutto quelle con mia madre, sembravano un remake dell'offensiva delle Ardenne con protagonisti neri e in stereofonia. Guerra Lampo divenne il mio simbolo preferito per casa. Mi immaginavo tutte le situazioni con loro su uno scenario da Giovanna d'Arco a Reims o da Guerra d'Indipendenza. Pulivo il mio acciarino di notte e fondevo le mie pallottole di piombo dopo mezzanotte, quando il resto della famiglia dormiva. Avevo scoperto un nuovo modo chiamato solitudine volontaria, un momento possibile a casa dei miei solo dopo mezzanotte. In qualsiasi altro momento della giornata, una porta chiusa era ancora considerato un insulto. Mia madre vedeva ogni atto di separazione da lei come uno smacco alla sua autorità. Avevo il permesso di chiudere la porta della mia stanza solo mentre facevo i compiti e non un attimo in più. La mia stanza dava sul salotto e un'ora dopo la cena sentivo mia madre chiamarmi. «Perché è ancora chiusa quella porta? Non hai finito i compiti?» Mi affacciavo alla porta. «Sto ancora studiando, mamma. Ho il compito di geometria domani.» «Non puoi venire a studiare col libro qui? Tua sorella fa i compiti sul divano.» Richiedere privacy era visto come un atto di aperta insubordinazione, al quale corrispondeva una punizione rapida e dolorosa. Al terzo anno di scuola fui grata per l'arrivo della televisione in casa nostra. Avevo una scusa accettabile per ritirarmi nella mia stanza e chiudere la porta. Quando alla fine andavo a letto, scene di violenza e caos popolavano i miei incubi come grani di pepe nero e bianco. Spesso mi svegliavo trovando la federa del cuscino rossa piena di sangue incrostato per un'emorragia nasale avuta durante la notte, oppure bagnata e satura dell'odore acre di sudore e lacrime di terrore. Toglievo la federa e la lavavo a mano di nascosto ogni fine settimana quando mi cambiavo le lenzuola. L'appendevo dietro il radiatore della mia stanza per farla asciugare. Quella federa divenne la prova tangibile di tutti i bombardamenti della mia guerra notturna. In realtà mi piaceva quell'odore rancido e pungente della federa e anche le macchie giallicce che vi rimanevano dopo aver lavato via il sangue. Per quanto sgradevoli, quelle macchie, proprio come quegli odori, erano la prova di qualcosa di vivo. Io, che così spesso credevo di essere morta e di risvegliarmi in un inferno di nome casa. Avevo imparato a memoria la poesia di Rinascita di Edna St. Vincent Millay. Tutte 8 le pagine, me le recitavo spesso. Quelle parole erano talmente belle che ascoltarle mi rendeva felice, ma erano la tristezza, il dolore e la rinascita che mi davano speranza. Che l'est e l'ovest colpiranno il tuo cuore, or che disgiungerli non puole, e a chi l'anima appiatta, il cielo cadrà addosso come un velo. Mia madre reagì a questi cambiamenti come se fossi un estraneo ostile. Provai ad affidarmi a una counselor scolastica. Lei era anche il capo del dipartimento d'inglese e continuava a dirmi che potevo fare molto meglio se volevo e a che avrei davvero potuto essere un vanto per la mia gente. Hai problemi a casa, tesoro? Come faceva a saperlo? Forse allora mi poteva aiutare. Le aprì il cuore, le raccontai della mia infelicità, le raccontai di come mia madre fosse severa e cattiva e ingiusta a casa e che non mi voleva bene perché mi comportavo male ed ero grassa, non ordinata, né ben educata come le mie sorelle maggiori. Disse alla signora Fluton che volevo andare via di casa a 18 anni o trasferirmi per andare all'università, ma che mia madre non voleva. Il rumore del traffico di Lenox Avenue fuori la finestra aumentò. Erano le 15:30. La signora Fluton diede un'occhiata al suo orologio. Ci dobbiamo fermare qui, tesoro. Perché non dici a tua madre di passare domani? Sono sicura che possiamo risolvere questo problemino. Non capivo a quale problema si riferisse, ma il suo sorriso condiscendente era dolce ed era una bella sensazione, per una volta, avere un adulto dalla mia parte. Il giorno dopo, mia madre lasciò l'ufficio prima e venne alla Hunter. La sera prima le avevo detto che la signora Fluton voleva parlare con lei. Mi aveva puntata con lo sguardo penetrante dei suoi occhi stanchi. Non mi dire che stai combinando guai anche in questa scuola. No, mamma, si tratta solo dell'università. Qualcuno che era dalla mia parte. Aspettai fuori la porta della stanza mentre mia madre stava dentro a parlare con la signora Fluton. Si aprì la porta. Mia madre uscì decisa dalla stanza e si diresse verso l'uscita della scuola guardandomi appena. Cacchio. Mi avrebbe dato il suo permesso per andare all'università se avessi ottenuto una borsa di studio? Raggiunsi mia madre alla porta d'ingresso. Che ha detto la signora Fluton, mamma? Posso andare al college? Appena prima di mettere il piede in strada, mia madre finalmente si girò verso di me e mi scioccò vedere che aveva gli occhi rossi. Aveva pianto. Non c'era rabbia nella sua voce, ma solo un profondo, orribile dolore. L'unica cosa che mi disse prima di girarsi e andarsene fu: come hai potuto dire quelle cose su tua madre a quella donna bianca? La signora Fluton aveva ripetuto le mie parole esatte a mia madre con un'orrida minuzia di particolari. Non capirò mai se era perché vedeva mia madre come un'arrogante donna nera che rifiutava il suo aiuto o se per lei eravamo un esperimento sociologico che non prevedeva sentimenti umani, riservatezza o buonsenso. Questa era la stessa counselor che un anno dopo mi fece un test attitudinale e mi disse che avrei dovuto prendere in considerazione la carriera di odontotecnico perché avevo totalizzato un punteggio molto alto in scienze e abilità manuali. A casa mi sembrava tutto molto semplice e molto triste. Se i miei genitori mi avessero amato, non li avrei infastiditi così tanto. Visto che non mi volevano bene, si meritavano che io li infastidissi il più possibile nei limiti della mia sopravvivenza. A volte, quando mia madre non mi stava sgridando, la sorprendeva ad osservarmi con occhi spaventati e sofferenti. Ma il mio cuore soffriva, e soffriva per qualcosa che non sapevo nominare. sister. I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too. A lot of suns going down. Oh, but trust me, no lowlife's gonna run me around. So let me tell you something, sister. Remember your name, no twister. Gonna steal your stuff away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister, 'cause honey, the sub is feeling fine. Durante il mio primo anno alla Hunter c'erano altre tre ragazze nere al mio stesso anno, anche se non nella mia stessa classe. Una di loro era molto per bene ed evitava tutte le marchiate accuratamente. Le altre due venivano dalla stessa scuola nel Queens e stavano sempre fra di loro per autoproteggersi. A metà del primo anno arrivarono altre due ragazze nere alla Hunter. Una era la sorella di Yvonne, che era stata la ragazza di mio cugino Jerry. Questo fattore minacciava di avvicinare i due mondi totalmente separati di scuola e famiglia. Era abituata a pensarli come pianeti distanti. L'altra ragazza era Jenny. Jenny fu l'inizio di una doppia vita per me alla Hunter, o meglio di una tripla vita. C'erano le marchiate con le quali facevo sedute spiritiche per richiamare le anime di Byron e Keats. C'era Maxine, la timida amica ebrea che suonava il piano e con la quale vagabondavo per gli spogliatoi dopo il coprifuoco e a cui venne un esaurimento nervoso tempo dopo perché temeva di stare morendo di lebbra. E poi c'era Jenny. Ogni parte della mia vita scolastica era separata dall'altra, senza alcuna connessione a parte me. Nessuna delle persone interessate voleva avere qualcosa a che fare con le altre. Maxine pensava che le marchiate fossero troppo pericolose e che Jenny fosse troppo appariscente. Le marchiate dicevano che Maxine era una mammona e che Jenny era una snob. Per Jenny erano tutte noiose e lo diceva apertamente ad ogni provocazione. Certo che teneva in giro con gente buffa. Si comportano come se avessero le stelle per reggicalzi. Io ridevo mentre ficcava la lana d'agnello nelle sue scarpette da danza e se le legava intorno alle caviglie. Jenny stava sempre tornando da o andando a una lezione di danza. Frequentavo le lezioni e pranzavo con le marchiate. A volte pranzavo e mi vedevo dopo la scuola con Maxine, e le ore di studio e ogni altra occasione che avevo le passavo con Jenny. Lei era l'unica che vedevo nei fine settimana. All'improvviso la vita era diventata un gioco eccitante per riuscire a trovare il tempo da passare con le persone con cui volevo stare. Imparammo ad apprezzare reciprocamente le nostre morbidezze dietro gli spogliatoi, inventando ogni genere di nomi e giochi diversi, da acchiapparella a ti piace così o a so colpire più forte di te, fino a che Jenny un giorno mi chiese: è questo l'unico modo che hai di fare amicizia? E da quel momento imparai altri modi. Imparai a sentire prima e a fare domande dopo. Imparai a fare tesoro prima della facciata e poi del fatto di essere una fuorilegge. Quella primavera Jenny e io facemmo cose che facevano sembrare le marchiate come bambino d'asilo. Fumavamo nei bagni e per la strada, facevamo sega a scuola e poi scrivevamo giustificazioni l'una per l'altra, copiando la grafia delle nostre madri. ci nascondevamo a casa di Jenny, abbrustolivamo marshmallow sul letto di sua madre, rubavamo qualche nichelino dalle borse delle nostre madri e vagabondavamo per la Quinta Avenue cantando canzoni sindacali. Facevamo giochi erotici coi ragazzi latini dietro le collinette di granito sopra al Morningside Park e parlavamo tanto. Il blocco di Berlino era appena iniziato e lo Stato di Israele rappresentava una nuova speranza per la dignità umana. Le nostre coscienze politiche in erba ci avevano già fatto cambiare idea sulla democrazia della Coca-Cola. Jenny aveva studiato danza classica. Non l'ho mai vista ballare se non in privato, per me. All'inizio del terzo anno lasciò la Hunter per avere più tempo per ballare, diceva. La verità era che odiava fare i compiti. Allora la nostra amicizia divenne meno collegata alla scuola. Jenny è stata la prima persona della mia vita che fossi cosciente di amare. È stata la mia prima vera amica. L'estate del 1948 fu un momento di grande cambiamento in tutto il mondo. Jenny ed io ci sentivamo parte di quel cambiamento e anche la maggior parte delle ragazze della Hunter. Invidiavamo le ragazze ebree che avevano il progetto di andare in Israele a lavorare in un kibbutz della nuova nazione. Il piccolo uomo esile, mite, aveva vinto e l'India era finalmente libera, ma lui era stato ucciso per questo. Non c'era più nessun dubbio che la Cina sarebbe diventata la Cina rossa e tre volte urrà per i comunisti. Il mio fervore rivoluzionario, iniziato con una cameriera bianca che si era rifiutata di servire del gelato alla mia famiglia nella capitale di questa nazione, diventava una posizione sempre più chiara, una lente attraverso la quale guardare il mondo. C'eravamo accalcati sotto i banchi di scuola durante le esercitazioni e avevamo tremato all'idea di un'intera città distrutta all'istante da una bomba atomica. Avevamo ballato per le strade e sentito i clacson dei camion dei vigili del fuoco e dei rimorchiatori nel fiume il giorno in cui la guerra era finita. Per noi, nel 1948, la pace era una questione molto reale e vivida. Migliaia di ragazzi americani erano morti per assicurare al mondo la democrazia, anche se a Washington DC non era permesso servire il gelato a me e alla mia famiglia. Ma noi avremmo cambiato le cose, Jenny e io, nelle nostre gonne a ruota e le ballerine, il new look. Il vento del cambiamento soffiava su tutto il mondo e noi ne eravamo parte. Jenny viveva con sua madre in un bilocale con angolo cottura sulla 119esima strada fra l'ottava Avenue e Morningside Avenue. Jenny aveva la sua stanza e sua madre Luisa dormiva su un grande divano in salotto. Luisa lavorava ogni giorno. Svegliavo Jenny a qualsiasi ora arrivassi da lei, saltando la scuola estiva, e passavamo le ore seguenti a decidere cosa indossare e chi saremmo state agli occhi del mondo quel giorno. Se non avevamo niente di adatto, mettevamo insieme con aghi e spilli un assortimento di gonne ampie e foulard. Siccome Jenny era più magra di me, spesso dovevamo modificare qualcosa sul momento per adattarlo a me, ma sempre in maniera che fosse poi facile ripristinarlo. Passavamo ore e ore a vestirci, a volte cambiando interamente il look all'ultimo minuto per trasformarci in due persone diverse, sempre completandoci a vicenda. Alla fine sbocciavamo, dopo ore a imbastire e a puntare, dopo decisioni prese all'ultimo minuto prima di stirare. Quell'estate l'intera New York, compresi musei e parchi e strade, fu il nostro cortile. Se c'era qualcosa che volevamo e che non ci potevamo permettere, rubavamo i soldi alle nostre madri. Bandite, gitane, straniere di ogni sorta, streghe, puttane e principesse messicane, c'era un costume appropriato per ogni ruolo e posti appropriati in città dove interpretarli fino in fondo. C'erano sempre cose da fare per adattarci a chi decidevamo di essere. quando decidevamo di essere operaie, ci mettevamo i pantaloni larghi e ci preparavamo i nostri portapranzo decorati e ci legavamo delle bandane rosse intorno al collo. Andavamo su e giù per la Quinta Avenue sui vecchi autobus aperti a due piani, gridando e cantando canzoni operaie a squarciagola. Solidarietà per sempre, l'unione fa la forza, quando il fervore sindacale nel sangue degli operai scorrerà. Quando decidevamo di fare le troiette indossavamo gonne attillate e tacchi alti che facevano male ai piedi e pedinavamo uomini tipo avvocati di bell'aspetto e rispettabili giù per la Fifth Avenue e Park Avenue facendo commenti, secondo noi salaci, sulla loro anatomia ad alta voce. Che bel deretano! Scommetto che dorme ad angolo retto, un eufemismo che usavamo alla Hunter per dire nudo. Fa finta di non sentirci, lo sciocchino. No, è solo troppo imbarazzato per girarsi. Quando eravamo africane ci avvolgevamo la testa con gonne a stampe vivaci e parlavamo la nostra lingua inventata nella metro diretta al village. Quando eravamo messicane indossavamo gonne a ruota lunghe e camicie svasate e sandali e mangiavamo tacos comprati a una bancarella davanti al Fred Langdon su McDonald Street. Una volta sostituimmo la parola cazzo con la parola pupazzo nelle conversazioni di un intero giorno e fummo buttate fuori dall'autobus numero 5 da un conducente infuriato. A volte ce ne andavamo in giro per il village con su dei vestitini tipo bavarese e cinture larghe in vita, coi fiori in testa e a turno strimpellando la chitarra di Jenny e cantando testi che avevamo adattato dalla poesia del primo Neruda. Tutti voi nordisti crudeli siete figli di un cane, nati da una bottiglia di rum. A volte componevamo noi i testi. Bevo gin, bevo gin, dannato drink di gin. Se non bevi gin con me, dannazione, non ci sarà più gin sopra il bancone. Bevo gin, dannato gin, bevo gin. E lo facevamo con un ritmo pesantissimo e monotono. Nel village incontravamo l'amica di Jenny, Jen, che era anche una ballerina. Era scura di pelle e bellissima. Viveva vicino a Jenny e frequentava l'Istituto di Musica e Arte. Jen era fidanzata con un ragazzo bianco di nome Alf, che aveva abbandonato la scuola e se n'era andato in Messico a dipingere con Diego Rivera. A volte le accompagnavo a una delle lezioni di danza al New Dance Group sulla 59esima strada. Ma per lo più Jenny e io uscivamo da sole. Per tacito accordo, di solito, non ci vedevamo nei fine settimana durante quell'estate per via delle nostre famiglie. I fine settimana divennero come ponti infinitamente tediosi fra il venerdì e il lunedì. L'intera estate fu una lunga serie di giornate gloriose ed eccitanti con Jenny e serate di guerra a casa che iniziavano con mia madre che diceva: «Dove sei stata tutto il giorno? E perché non hai messo a posto i vestiti? Ho pulito la tua stanza, ho lavato il pavimento della cucina, ho comprato il latte». Avanzavamo nel sole del pomeriggio per prendere d'assalto la città. I giorni in cui non avevamo soldi per andare in centro in autobus, ce ne andavamo a Central Park a guardare gli orsi. A volte ce ne andavamo solo in giro, mano nella mano, per le strade di Harlem intorno a casa sua. Mi sembravano tanto più vive rispetto alle strade di Washington Heights dove vivevo io. Mi ricordavano le strade dove ero cresciuta, sulla 142esima strada. Compravamo e mangiavamo granite grattate da un blocco di ghiaccio e messe in un bicchierino di carta e poi generosamente innaffiate con sciroppi sfavillanti tenuti allineati in un arcobaleno di bottiglie sui due lati del ghiaccio. Si vendevano su traballanti bancarelle di legno fatte in casa con ombrelloni dei colori chiari per fare ombra al ghiaccio che era stava lì a sciogliersi lentamente sotto qualche asciugamano di spugna non proprio pulito. Questi bicchierini freddi di ghiaccio tritato erano la cosa più deliziosamente rinfrescante del mondo, resi ancora più buoni dalla veemenza con cui entrambe le nostre madri ce l'avevano proibiti. Quelle granite erano considerate da molte mamme nere una possibile causa di contagio della poliomielite ad Harlem e andavano evitate come le piscine pubbliche. Alla fine le bancarelle del ghiaccio vennero proibite dal sindaco La Guardia. Dovunque ci trovassimo, appena le ombre del tardo pomeriggio iniziavano ad allungarsi, iniziavamo a tornare verso casa. Sapevamo di non dover dare per scontata la nostra libertà, che poteva esserci tolta in qualsiasi momento, e cercavamo di non oltrepassare il limite. A volte facevamo cavolate e infrangevamo qualche regola sconosciuta, e allora Jenny rimaneva in castigo a casa per qualche giorno. A casa mia le punizioni erano più repentine e dirette e brevi, e spesso quell'estate avevo le braccia e la schiena doloranti per via della prima cosa su cui mia madre aveva messo le mani e usato come arma per colpirmi. Quando Jenny stava a casa in castigo, stavo da lei tutto il giorno. Sedevamo al tavolo della cucina a parlare, bere caffè, o stavamo nude sul divano letto della madre in salotto ad ascoltare la radio e bere. A volte facevamo visita a sua nonna, che viveva al piano di sopra, e lei ci faceva ascoltare i suoi dischi di Nat King Cole. Danza, ballerina, danza e piroetta al ritmo del tuo cuore triste. Ballerina, dance, and do your pirouettes in rhythm with your aching heart. Dance, ballerina, dance, you mustn't once forget a dancer has to dance the part. Whirl, ballerina, whirl, and just ignore the chair that's empty in the second row. This is your moment, girl, although he's not out there applauding as you steal the show. Once you said his love must wait his turn, you wanted fame instead. I guess that's your concern. We live and learn, and love is gone, ballerina gone. So on with your career, you can't afford a backward glance. Dance on and on and on. A thousand people here have come to see the show. And round and round you go, ballerina dance. Dance, dance. Whirl, ballerina. La madre di Jenny l'aveva cresciuta da sola sin da quando lei era bambina. Suo padre aveva lasciato Louisa prima che Jenny nascesse. A me piaceva la signora Thompson, era giovane e bella e molto comprensiva, pensavo, rispetto a mia madre. Aveva fatto l'università e questa la rendeva in qualche modo più accettabile ai miei occhi. Lei e Jenny potevano parlare fra di loro in una maniera incomprensibile fra me e mia madre. Louisa sembrava molto moderna. Lei e Jenny condividevano molti interessi e gli stessi vestiti, e io pensavo a quanto doveva essere bello avere una madre a cui piacevano gli stessi tuoi vestiti e li indossava. Quell'estate Jenny incontrò suo padre, Phillips Thompson, per la prima volta. Cadde subito nella sua rete di ammaliatore. Era un uomo furbo e pieno di rancore, di gran spirito ma di poco amore, che si approfittava di chiunque gli dimostrasse un po' di ammirazione. Jenny aveva 15 anni quando incontrò suo padre. Mancavano 2 mesi al suo 16° compleanno quando morì. Jenny era spesso in visita da Phillips ed Ellie, la donna con la quale lui viveva. Lei e Louisa iniziarono a litigare sempre di più per il fatto che Jenny vedeva suo padre. Luisa aveva lavorato 15 anni da sola per dare a Jenny una casa e il cibo e i vestiti e la scuola, e all'improvviso era arrivato Philip, bello e irresponsabile, a conquistare Jenny. Luisa Thompson non era una donna che teneva la lingua a freno. A metà estate, e con un'insistenza da parte di Phillips, Jenny decise di voler andare a vivere con lui. Luisa era fuori di sé e le disse un fermo no. Fu allora che Jenny iniziò a dire a me e a chiunque ascoltasse che si sarebbe tolta la vita alla fine di quell'estate. Io le credevo e non le credevo. Non insisteva molto sulla cosa. A volte Jenny non parlava del suicidio per giorni. Io credevo che se ne fosse scordata o avesse cambiato idea in modo brusco e repentino, come spesso faceva. Poi, sull'autobus, faceva un commento casuale su qualcosa che avevamo in progetto di fare, riferendosi all'aspetto temporale della cosa o a quanto tempo era rimasto prima che morisse. Mi metteva angoscia e non ci volevo pensare. Jenny parlava di ammazzarsi come di una decisione già presa e irrevocabile, come se non ci fossero più dubbi e io dovessi accettarlo con la stessa irrevocabilità con cui accettavo l'arrivo dell'inverno. Una parte dentro me urlava no, no, no, e un giorno, tornando a casa da Washington Park, le dissi: ma Jenny, e come faremo noi che ti amiamo? Intendendo me e Jean e tutti gli amici con cui non conoscevamo, ma che mi ero immaginata. Jenny dette il suo solito scatto con la testa arrogante, spostando le due trecce lunghe e nere. Aggrottò le sopracciglia sui suoi grandi occhi scuri e disse col tono più imperioso: beh, immagino che dovrete vedervela da voi, no? E all'improvviso mi sembrava di aver detto una cosa molto stupida e non seppi rispondere. Il giorno che Jenny aveva scelto per morire era l'ultimo giorno di agosto. Era un sabato uggioso e io stavo distesa sul divano nel salotto di casa mia in penombra, stringendo un cuscino e pregando Dio di non lasciar morire Jenny. Non avevo parlato con Dio da molto tempo e non ci credevo più veramente, ma ero pronta ad aggrapparmi ad ogni speranza. Non avevo la forza di fare nient'altro. Promisi che non avrei più rubato i soldi destinati all'offertorio della domenica in chiesa e di tornare a confessarmi dopo tutti quegli anni. Era il sabato precedente alla festa del lavoro e l'estate era finita. Per tutta l'estate Jenny aveva detto che si sarebbe tagliata le vene alla fine della stagione, e fu esattamente quello che fece. La trovò sua nonna mentre fumava una sigaretta macchiata di sangue in una vasca piena di acqua calda già diventata rosa. Non ci vedemmo per 2 settimane, ma parlammo al telefono ogni giorno. Jenny diceva che era arrabbiata con se stessa per aver mandato a puttane la cosa, ma era soddisfatta del risultato. Luisa aveva consentito che andasse a vivere da Phillips ed Ella. Io ero grata che fosse ancora viva. Ripresi ad andare a messa la domenica per un periodo e trovai una chiesa fuori mano sull'East Side per andare a confessarmi. L'autunno arrivò in fretta. Con Jenny ci vedevamo di meno da quanto frequentavamo 2 scuole diverse. Al telefono le dicevo quanto mi mancasse. Avevo capito che la vita che faceva con Ella e Phyllis erano molto diversa da quella con Luisa, ma Jenny non amava molto parlare. A volte l'andavo a trovare a casa e lì, sul divano letto, nella stanza di Ella e Phyllis, bevevamo e abbrustolivamo i marshmallows con i fiammiferi infilzandoli su una matita. Bisognava soffiare di continuo per distribuire la fiamma tutto intorno. Quella casa però mi metteva a disagio e mi sembrava che Jenny si comportasse in maniera diversa lì dentro, forse perché sentivo che ella stava sempre ad origliare fuori dalla porta mentre spolverava o spazzava. Sembrava che ella pulisse tutto il tempo con le pantofole ai piedi e uno straccio sulla testa, canticchiando sottovoce lo stesso motivetto all'infinito. a casa mia non potevamo mai stare perché i miei non ammettevano visite in loro assenza. Non vedevano di buon occhio le amicizie in generale e a loro non piaceva molto Jenny perché mia madre la trovava troppo sguaiata. Allora di solito ci davamo appuntamento a Columbus Circle o al parco di Avenue Square e per un breve istante l'oro delle foglie attorno alle fontane dissimulava il turbinio di avversità dai colori vaghi alieni che si andava addensando su di noi. A scuola senza Jenny era tutta un'altra storia. Quell'autunno passò tra Maxine, la sua musica, la sua cura per l'acne e la sua cotta disperata per la dirigente del dipartimento di musica. Anch'io mi ero presa una cotta per l'ultimo acquisto della facoltà d'inglese, che vestiva sempre in completo e scarpe basse e aveva una mascella pronunciata molto affascinante. E poi finivamo sempre nei guai perché passavamo il tempo negli spogliatoi dopo la scuola. Non capivamo cosa ci accusassero di fare laggiù, sapevamo solo che non dovevamo andarci e che quello era l'unico luogo dove poter stare completamente da sole, ossia senza le nostre madri. Nessuna delle due aveva fretta di tornare ai propri conflitti familiari. Per me e Maxine gli spogliatoi erano un mondo privato. A volte, vagabondando per quelle stanze, ci imbattevamo nei mondi di altre fuggiasche come noi e mentre le superavamo correndo nei corridoi le sentivamo mormorare animatamente fra di loro. Nelle vesti del cavaliere galante schiacciavo con sprezzo gli scarafaggi coriacei che sfrecciavano avanti e indietro come al galoppo. Se ne vedevano di continuo, attorniati da una manciata di ragazze che urlavano congelate dalla paura. Fu così che diventai la sterminatrice ufficiale di scarafaggi della società degli spogliatoi e questo mi rese più coraggiosa. Una volta ho persino ammazzato una di quelle blatte lucide da 10 centimetri. Solo anni dopo riuscii ad ammettere quanta paura ne avessi anch'io. Ma prendere in mano la situazione e sembrare forte e coraggiosa era troppo importante per me, l'acclamata sterminatrice di scarafaggi. Forse l'audacia non è altro che questo, la paura di non essere audaci. Verso la fine di gennaio ci fu una lite tra Jenny e me per qualcosa di poco importante. Per 2 settimane non ci vedemmo né sentimmo. Mi chiamò per il mio compleanno e un po' di tempo dopo, il giorno del compleanno di George Washington, ci incontrammo. Ci tenemmo per mano mentre guardavamo le scimmie allo zoo di Central Park. Uno dei mandrilli ci osservava con occhi grandi e tristi e proprio alla sua presenza decidemmo che anche se ce l'avevamo l'una con l'altra non avremmo più fatto passare tanto tempo senza parlarci. La nostra amicizia era troppo importante e poi nessuna delle due si ricordava neanche il motivo del litigio. Più tardi ce ne andammo a casa sua. Fuori aveva iniziato a nevicare e noi sdraiate sul divano letto, la testa di Jenny adagiata sul mio ventre, ce ne stavamo lì a fumare e a brustolire marshmallow. Quella era l'unica stanza della casa dove si potesse avere un po' di privacy. Il letto di Jenny era il divano in salotto, a parte quando suo zio era in visita, e allora lei doveva dormire sul pavimento. Detestava non poter avere un posto tutto suo dove dormire e tenere la sua roba. Era la metà di marzo, la notte in cui Jenny venne da me. Mi chiamò chiedendo se poteva venire a casa, che doveva parlarmi. Mia madre acconsentì malvolentieri. Le dissi che dovevamo studiare per un esame di geometria. Jenny arrivò verso le 9. Un po' troppo tardi per fare visita, visto che domani si fa a scuola, fu il commento acido di mia madre al saluto di Jenny. Ci chiudemmo nella mia stanza. Jenny aveva un aspetto orribile. Aveva gli occhi cerchiati e lunghi graffi su ogni lato del viso. Le trecce lunghe, di solito sempre in ordine, erano tutte scarmigliate e arruffate. Mi disse solo che non aveva un posto dove passare la notte perché lei e suo padre avevano litigato e non aveva voglia di parlarne. Mi chiese se poteva rimanere. Sapevo che la cosa era impossibile. I miei non avrebbero mai dato il permesso e avrebbero chiesto spiegazioni. Ero combattuta, ma sapevo di aver già tirato troppo la corda facendo venire Jenny a casa a quell'ora. «Ma perché non vai da Luisa?» dissi. «Che razza di padre riduce la figlia in quello stato? Per favore, non tornare da lui, Jenny!» Mi guardò come se stessi dicendo idiozie, ma nella voce non c'era traccia della sua solita impazienza. Sembrava stanca. «Non posso andare da Luisa. Non c'è posto per me. Ha rifatto la mia stanza e poi mi aveva detto di scegliere ed io l'ho fatto. Mi aveva detto che se andavo a stare da Philip non potevo più tornare da lei. E adesso ella è andata a trovare la madre al sud e mio padre e mio zio Leddy non fanno che bere. E quando Philip beve non si sa cosa. Vedere Jenny sull'orlo del pianto mi mise una gran paura. Sentì mia madre tuonare dal salotto. «Sono le 9:30, ragazzi. Avete finito là dentro? Sicuro che state studiando a quest'ora?» «Perché almeno non la chiami tua madre, Jenny?» la implorai. «Presto sarebbe dovuta andare via. Fra un minuto mia madre avrebbe aperto la porta e rompendo con la grazia, la sua solita grazia, nella stanza. Si alzò di scatto, come per un moto d'orgoglio del suo vecchio spirito. «Ti ho detto di no. Non posso parlare di Phil a mia madre. Si comporta da pazzo a volte.» Si passò le dita sui graffi del viso. «Ok, devo andare. Senti, ti vengo a trovare a scuola venerdì dopo i tuoi esami di fine trimestre. A che ora finisci?» mi chiese mettendosi il cappotto. «Alle 12. Che farai adesso, Jenny?» Ero preoccupata per le sue condizioni, ero anche sollevata che se ne stesse andando. Già mi immaginavo la scenata fra me e mia madre non appena Jenny fosse uscita. «Non ti preoccupare, me ne vado da Jen. Buona fortuna per gli esami. Ci vediamo venerdì a mezzogiorno, vicino all'entrata, sulla 68ª. Sulla via per la porta d'ingresso, attraversammo insieme l'atmosfera minacciosa del salotto. «Salve, Jenny», disse mio padre con tono austero, prima di rimettersi a leggere il giornale. Non si mischiava mai in quelle faccende, a meno che io non dessi filo da torcere a mia madre. «Buonanotte, cara», disse mia madre con dolcezza. «Tuo padre non dice niente che te ne vai in giro a quest'ora?» «No, signora. Adesso prendo un autobus e me ne vado dritta a casa di mia madre.» Jenny mentì con nonchalance, sfoggiando uno dei suoi sorrisi più raggianti. «Si è fatto davvero tardi?» mia madre annuì, lasciando solo trapelare un leggero biasimo. «Fai attenzione mentre torni a casa e saluta tua madre da parte mia.» Quando notai che mia madre studiava i graffi sul viso di Jenny, mi affrettai con lei verso il corridoio. «Ciao, Jenny. Stai attenta, ti prego.» «Attenta a cosa?» «Non essere sciocca. Ho solo bisogno di una dormita.» Chiusi la porta dietro di lei. Ritornata in salotto, mi sorprese vedere mia madre più preoccupata che arrabbiata. «Allora, che è successo alla tua amica?» Mia madre mi fissava da sopra gli occhiali. «Non le è successo niente, mamma. Mi servivano solo i suoi appunti di geometria. Con tutto il tempo che hai per studiare a scuola, all'improvviso ti servono gli appunti di geometria a quest'ora?» Mia madre non aveva boccato. «Vieni a darmi le lenzuola se vuoi che le lavi domani.» Si alzò, mise da parte il cucito e mi seguì nella mia stanza. Aveva intuito qualcosa, ma non abbastanza da farsi un quadro della situazione. Non dubitava delle sue percezioni, ma l'apprensione nella sua voce non mi serviva. Come osava seguirmi nella mia stanza, come per ricordarmi perentoriamente che nessun angolo della casa poteva sfuggire al suo controllo. Mia madre sentiva che era successo qualcosa, ma la sua preoccupazione era fuori luogo. Non ero io ad essere in pericolo. Frugò un po' fra la mia roba sporca, distrattamente, e con un dito raccolse una sottana logora. non hai niente di meglio da metterti di questo straccio di sottana? Tra un po' te ne andrai in giro con una mano davanti e l'altra dietro. Poi mise da parte l'indumento mentre raccoglievo il resto del mio bucato. Ascolta, tesoro, te lo dico per il tuo bene, non ti mischiare negli affari di quella ragazza e dei suoi genitori, capito? Che razza di donnaccia, lasciare andare la figlia con quel buon a nulla che gioca a fare il padre. Mia madre aveva incontrato Philip Thompson una volta sola mentre eravamo sulla 125esima per comprare le divise scolastiche. Jenny lo aveva presentato con orgoglio e lui aveva sfoggiato il suo lato più superficiale e vanesio. Mi prese il bucato dalle mani. Comunque, senti, non voglio che stai con quella ragazza tutte le ore. Qualsiasi cosa faccia, sono guai. Ascolta bene quello che ti dico. Non mi sorprenderebbe vederla col pancione un giorno o l'altro. Sentì la rabbia oscurarmi la vista, come un leggero sipario. Mamma, Jenny non ha nessun problema. E lei non è come dici tu. Cercai di tenere a bada la rabbia. Come poteva parlare in quel modo di Jenny? Neanche la conosceva, solo perché era la mia amica. Non usare quel tono con tua madre, signorina, mi avvertì mio padre dal salotto. Qualsiasi insubordinazione, reale o meno, nei confronti di mia madre era considerata peccato capitale ed era ciò che risvegliava mio padre dalla sua posizione di osservatore neutrale della guerra tra me e lei. Mio padre stava per intervenire. Questa era l'ultima cosa di cui avevo bisogno. Una delle mie sorelle stava battendo a macchina una relazione. Quelle note staccate arrivavano fino in salotto attraverso le porte di vetro che facevano da divisorio tra le due stanze. Mi chiedevo se Jenny fosse già arrivata a casa di Jean. Se quella sera avessi litigato con i miei, sarei sicuramente dovuta tornare dritta a casa dopo gli esami quel venerdì. Ingoiai la rabbia, un nuovo marcio che rimase a metà tra gola e stomaco. Avevo in bocca il suo sapore acido. Non volevo alzare la voce, papà. Scusa, mamma. Tornai in salotto. Buonanotte. Da brava bambina, diedi un bacio a ciascuno e mi ritirai nell'apparente sicurezza della mia stanza. Nemmeno una lacrima per quella cosa che era una volta una creatura. Nemmeno una lacrima per quella cosa che era stata una creatura. Nemmeno una lacrima per quella cosa che era stata. E nemmeno per quei silenzi bui, profondi, sazi delle carni giovani. Quante lacrime, invece, alla vista di due uomini, figure solitarie, appiattite contro il cielo, sole, che rimboccano una coltre di terra sul tumulo del giovane sangue. Era l'immagine di noi che scrutavamo nella buia calda coltre madre, l'immagine di noi nel seno rigonfio della terra, non più giovani, e la scoperta di noi, morte e sole. Nemmeno una lacrima per quella cosa, lacrima per quella cosa, nemmeno una lacrima per quella cosa che era una volta una creatura. Across the line, this is the song of the smothering vine, twisted its laurel to crown her head, laid as a wreath on her. The blood that turned into wine, this is the wine of the house, it is said, this is the girl who yearned to be heard, so much for cradling a smoldering. The tears fall. This is the girl who is having a ball. This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house, it is said. This is the blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who cried to be heard. So much for cradling a smoldering. Siamo arrivati alla fine di questa ennesima lettura di Zami, di Audre Lorde. Io ringrazio prima in primis Elisa, che sta mezza moribonda eppure stoicamente è venuta ad aiutarmi al mixer. E ringrazio voi che ci avete ascoltate, e vi do appuntamento alla prossima lettura, che sarà il 10 febbraio, la lettura di Zami di Audre Lorde. Ricordo che chi volesse ascoltare le letture precedenti può farlo all'indirizzo mfla.noblogs.org. Ripeto, mfla.noblogs.org. Lì troverete le registrazioni delle letture di Zami, e non solo, ma di tutte appunto le trasmissioni del martedì femminista e lesbica autogestito. E adesso lasciamo lo spazio alle compagne connettive. Nancy ed Elisa vi ringraziano e vi auguro una buona serata con le trasmissioni, e una buona serata come volete voi. Ciao a tutte. Dreamt of before I came.